בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Allora, parliamo di questo disco molto bello. C'è una cosa importante da sottolineare. Questa svolta è dovuta al fatto che c'è Max Casacci che va prodotto il disco. Beh, questa svolta è dovuta in seconda battuta alla presenza di Max Casacci. Lui ha favorito, possiamo dire questo. Il tutto, questo incontro è nato in questo modo. Mm-hmm. È nato dall'idea che noi avevamo di questo nuovo disco. Volevamo provare una strada che non fosse l'elettroacustica, che è quella che ci ha accompagnato per tutti questi anni. Volevamo usare un po' di più l'elettronica, e Chris, che è uno dei nostri chitarristi, che era quello più esperto, aveva già iniziato a lavorare con l'elettronica per i nuovi pezzi. Avevamo bisogno di un orecchio, un parere esterno e qualcuno che ci aiutasse a chiarire meglio quello che il modo in cui volevamo esprimere questi nuovi brani, ed è uscito fuori il nome di Max Casacci, e nel senso ci andrebbe effettivamente qualcuno che sapesse più di noi di elettronica, un nome, non so, si era pensato Max, uno come Max Casacci, esatto, visto che si era pensato proprio siamo quello. Anche quasi vicini di casa, sì, esatto. Mi ha detto, insomma, no, perché uno come Max Casacci? Sì, proviamo a chiedere a lui e vediamo, certo, se lui può essere interessato a questo lavoro. Lui e ha scritto, siamo fatti una specie di provino, certo, a vicenda. Per lui, scusami. Lui ha ascoltato i nostri pezzi e poi è venuto una volta in sala prove a vedere che cosa si poteva ascoltare dal vivo, e noi gli abbiamo poi dato un paio di pezzi su cui lavorare per vedere se riuscivamo in qualche modo a capire il modo che lui aveva di affrontare questo nostro desiderio. Ci siamo piaciuti a vicenda e abbiamo iniziato a fare questo disco insieme, e in realtà per assurdo lui è poi quello che ha limitato l'uso dell'elettronica. È vero, è verissimo. L'ha proprio detto in un'intervista, e poi ha detto questa frase significativa: infine spiegherò che nel mio modo di lavorare non c'è mai un punto di non ritorno, e che in qualsiasi fase del gruppo il gruppo ha sempre la possibilità di schiacciare l'ok. Quindi, sì, infatti è andata così. È andata proprio così. Anche se lui ha, come dire, calcato la mano su alcune idee e ha lanciato appunto idee a cui noi non eravamo arrivati, però ha avuto sempre un occhio al nostro passato musicale e anche un po' al nostro mix di suoni, per cui laddove ha pensato che noi stessimo esagerando vi ha proprio bloccati, ha pensato di dire no, però comunque voi siete sempre in perturbazione. Certo, soprattutto prima è perturbazione, poi Max ha dato una mano, insomma, possiamo dire questo. Noi cominciamo con il primo pezzo che dà proprio la chiave di volta, la svolta, se per modo di dire, una leggera svolta. Chi ti capisce? Secondo me ha un sacco di sonorità molto molto accattivanti, e lo sentiamo. Cosa dici, Elena? Sono d'accordissimo. Il mondo non ti merita, non ti capisce, ma il ruolo della vittima ti ferisce, da sempre la politica non ti capisce, ma ti rapisce un comico, in quello che ti scarichi, non ti capisce, nella tua squadra cinema, dentro le strisce. Il mondo non ti merita, non ti capisce, ma il ruolo della vittima ti ferisce. Sono come sabbie mobili, sempre in attesa di un'aria diversa, spalanca la finestra. Essere foglia che il vento attraversa, senza nemmeno farla apposta. Se non mi piace scappo, da una canzone schippo. Se non mi sembra adatto, faccio saltare il tappo. Se hai la ragione il torto, se un muro e se una porta, se il giudice la colpa, se il mondo non ti ascolta. Sempre in attesa di un'aria diversa, spalanca la finestra. Essere foglia che il vento attraversa, senza nemmeno farla apposta. Sempre in attesa di un'aria diversa, spalanca la finestra. Essere foglia che il vento attraversa, senza nemmeno farla apposta. Senza nemmeno farla apposta. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Blu Time. 21 e 57 minuti primi ancora con voi Blu Radio Veneto ed Elena Diana dei Perturbazione. Elena. Eccoci qua. Benissimo. Un bel inizio, Elena, sicuramente. Qua ci sono sempre i Perturbazione. C'è qualche aggiunta, qualche mano dal punto di vista produttivo di Max Casacci, ma sono sempre i Perturbazione, assolutamente. Sì, sì, sì, assolutamente. Nel senso che insomma, il cuore dei testi è sempre nostro, le armonie sono sempre vostre, chiaramente. Sono le nostre. Max ha fatto un lavoro magnifico su tutta la sezione ritmica. Però non ha assolutamente cancellato quello che è il cuore della nostra musicalità. Il cuore della band, assolutamente. È il sesto disco questo, Elena? Sì, no, il settimo. Aspetta che faccio il conto. 1, 2, 3, 4, 5, è il settimo. Il settimo. Dal 1996 siamo partiti con i Perturbazione. Una strada sempre in salita, secondo me. Sempre dei dischi molto importanti. Io ricordo l'acclamatissimo... dove c'era Agosto, chi non ce lo può scordare? Il Circolo. È Il Circolo, l'acclamatissimo disco. Dove è stato ristampato di recente, giustamente. Sì, è stato ristampato con qualche traccia che non era stato inserito in Circolo originale, con un po' di cose nuove, altri contributi, certo. Qualche piccola chicca. Qualche piccola chicca. E diciamo, quando una rivista come Rolling Stone dice che l'album in Circolo è uno dei fra i 100 migliori dischi italiani, ha perfettamente ragione, Elena. Tu sei troppo bravo, troppo gentile. È un disco che noi abbiamo molto amato perché è il nostro primo disco in italiano, perché i Perturbazione nascono... Sì. In inglese. Esattamente. Questo. E poi dopo il primo album Waiting to Happen sono passati all'italiano con un EP che era lo scatolino a forma di pizza, mm-hmm. in cui c'erano 5 pezzi in italiano e solo più uno in inglese. Esattamente. E come mai questa scelta, Elena? Di solito si passa dall'italiano all'inglese e voi invece avete fatto l'inverso, dall'inglese subito all'italiano. Noi abbiamo fatto l'inverso perché nonostante il nostro cantante sia assolutamente un anglofono, sua madre era un'insegnante di inglese, siamo cresciuti, loro, soprattutto i boys, sono cresciuti con il rock inglese. Tutto sommato però poi abbiamo guardato le facce del nostro pubblico e ci siamo resi conto che alcune cose che così avevamo voglia di comunicare non venivano sempre ben comprese, perché purtroppo, diciamo così, in Italia, e in questo ci siamo anche noi, non è che mi certo. tiro fuori, in fondo la lingua inglese non è ancora così confident per tutti, per cui capire il testo di una canzone non dico che sia il lusso di pochi, però neanche di tutti. Per cui abbiamo pensato che l'italiano forse era il mezzo che ci mancava per poter comunicare appieno quello che volevamo dire. Quindi quindi abbiamo fatto questo periodo esatto. in cui il nostro cantante ha dovuto piegarsi a questa necessità del gruppo e non è stato semplicissimo, ma alla fine insomma il risultato è stato poi in circolo e tutto quello che è venuto dopo. Elena, ricordiamo la formazione della band. Allora, Tommaso è il cantante. E devo dire anche i cognomi. Beh, Tommaso lo conosco. Cantante. Poi certo. ci sono due fratelli Lomele, sì. Rossano il batterista e Cristiano il chitarrista, poi c'è Gigi Giancursi l'altro chitarrista, Alex Baracco al basso e poi ci sono io al violoncello, e il tastiere esattamente. Tommaso ha detto in un'intervista che l'album precedente, Del nostro tempo rubato, mi pare che sia Raddoppio, siete arrivati a un certo punto con questo album e poi avete deciso, come tu hai detto all'inizio, di cambiare leggermente ma progressivamente. Era un punto di non ritorno forse, quell'album là. Ma Del nostro tempo rubato, a differenza di questo ultimo album, Musica Is, che poi sono 35 minuti sì, di 35, musica. Un disco molto breve, ma coinciso, sì. Ecco, Del nostro tempo rubato è esattamente il concetto opposto. Esattamente. È un grande contenitore di 24 tracce in cui liberamente abbiamo espresso negli stili, nei modi e nei testi che ci venivano in mente tutto quello che avevamo voglia di dire in quel momento. E quindi non abbiamo tanto pensato all'omogeneità dell'album quanto a tutto quello che in quel momento così avevamo voglia di esprimere esatto. in musica. E da lì c'erano in luce dei brani in cui si sussurrava qualcosa di elettronico. Poi non è stata una svolta, come giustamente tu hai detto, è stata un arrivare lentamente ma progressivamente a questo. Certo. Secondo me. Una cosa molto interessante che avete fatto, fra tante cose molto positive, avete riproposto La buona novella, qualche anno fa. Una rilettura integrale avete fatto. Sì, è stato un bellissimo lavoro per noi, anche una grande sfida, ripercorrere questo lavoro di De André, che musicalmente è molto molto bello, e un lavoro totalmente diverso che non mettere in piedi tutti i brani di un disco, interpretare delle canzoni cantate anche da tanti altri, certo. no? Perché poi De André è ampiamente ricordato e cantato ovunque e quindi anche con una sorta insomma, bisogna accostarsi un sì, po' non, di non è semplice, ecco. Decisamente. Però non è mai stato edito a quanto sembra questa vostra prova musicale. No, non è mai stata edita, è lì pronta per essere quando sarà il momento giusto. Aspetta il suo momento. Esattamente. Ritorniamo a Musica X, mettiamo il singolo adesso, che è molto bello, molto accattivante, un singolo alla perturbazione, sempre in ogni caso. La vita davanti. Cosa dici di questo pezzo, Elena? Quando si è trattato di scegliere il primo singolo, si sono scatenate moltissime discussioni, sia fra di noi che con la nostra etichetta. Perché, che è la Mescal, ricordiamo. Sì, che è la Mescal, perché in realtà c'era chi voleva subito lanciarsi con qualcosa che tagliasse definitivamente con le sonorità acustiche. E tutto sommato invece una parte di noi e anche l'etichetta sono stati d'accordo nel proporre un brano che avesse un taglio perturbazione abbastanza riconoscibile ma molto prodotto, in cui si sente molto bene il lavoro che Max Casacci ha fatto con noi e quindi che avesse delle sonorità nuove ma con appunto un taglio un po' più perturbazione. Certamente, lo sentiamo, La vita davanti. Non capisco come mai l'orologio segna sempre avanti, è per questo che noi due, fianco a fianco, l'avventura, la carriera, o cameriera a Londra nei ristoranti. Quando hai tutta la vita davanti, credi ancora nelle verità, nelle mezze bugie dei cantanti, perché hai tutta la vita davanti, ogni scelta non c'è posto che ti va, se tu sogni gli orizzonti distanti, vincolata ai nomi dei ripensamenti, su chi sbaglia, sull'Italia, sui bisogni veramente importanti. Quando hai tu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Io avevo una piccola curiosità, Maurizio, a chiedere ad Elena. Certo, certo. Elena. Sì. Mi senti? Sì. Volevo chiederti, io ho visto un bellissimo video, torno un po' indietro di qualche anno, di una canzone che si chiama Agosto. E avete vinto un premio speciale che io consiglio anche di vedere, a chi ci ascolta, di andare su YouTube e vedere il filmato Agosto, il video Agosto dei Perturbazione. E volevo che mi dicessi due parole anche riguardo al fatto che avete vinto anche un altro premio del MEI, se non mi sbaglio. Sì. Intanto parliamo del video. L'idea del video è stato un incontro molto bello, in realtà, quello fra Agosto e questo video, che è di Vincent Dindon, un autore francese. Io lo sto mettendo in sottofondo, tra l'altro, piano piano. Si è trattato, insomma, volevamo fare un video per Agosto e c'erano delle idee. E Tommaso aveva buttato giù alcune idee, perché lui in realtà è anche un animatore molto bravo, e combinazione nei suoi pellegrinaggi fra vari festival di animazione, forse proprio in quello di Annecy, aveva visto tempo prima questo bellissimo video di Vincent Dindon. E così ci aveva detto, guardate che io avevo avuto un'idea simile, ma questo autore l'ha realizzata così bene che io ve lo propongo e ve lo faccio vedere. E io mi ricordo ancora quella volta che ci siamo trovati abbiamo provato a mettere su la traccia di Agosto e abbiamo guardato il video di Vincent Nintendo. Ed è stata una cosa veramente magica, perché sembrava che lui in qualche modo avesse fatto questo video per la nostra canzone, o perlomeno noi abbiamo avuto questa impressione. E quindi poi gli abbiamo scritto, abbiamo chiesto, abbiamo avuto la sua autorizzazione, abbiamo fatto qualche piccolo taglio perché avevano delle lunghezze diverse, e così è nato questo sodalizio fra il video e il brano. Che è veramente molto bello, veramente molto bello. E poi parliamo anche un attimo di questo premio May che avete preso come miglior band dell'anno. Come miglior band avevamo preso un premio anche come miglior tour, perché avevamo fatto per In Circolo qualcosa come 100 date, per cui alla fine io penso che si siano stufati di vederci in giro per l'Italia e ci abbiano dato un premio per questo. Gli diamo un premio così si fermano un attimo. Quanti tour avevate fatto in quel periodo? 130 per esattezza, Elena. Sì, 130. Tantissime date. Fra l'altro, non so se vi interessa un po' di gossip, il tour di In Circolo era iniziato come un tour matrimoniale. Ah. Perché io e Gigi, uno dei due chitarristi, ci siamo sposati all'inizio del 2002 e avevamo non molti giorni a disposizione per fare un tour, e quindi abbiamo usato metà di questi giorni per fare il viaggio di nozze e metà per fare il tour nel nord-est. Bene. Con tutti gli altri. Quindi abbiamo iniziato questo lunghissimo tour così. A proposito di video, il pezzo che abbiamo sentito, La vita davanti, c'è un video con Cè Tommaso e con Veronica Calilli, mi pare, è così? L'attrice protagonista. Questo video della vita davanti, sì, nasce da un'idea che ha avuto Gigi. Uh-huh. Cioè l'idea che a lui piaceva molto e a noi anche piaceva tantissimo era quella del time-lapse. Sì. Se qualcuno ha voglia di smanettare un po' su YouTube e cerca un po' di video su timelapse, vedrà dei video molto particolari di persone comunissime che tutti i giorni per un anno o più di un anno si sono scattati una foto nello stesso luogo, in luoghi diversi, ma sempre con la stessa inquadratura, diciamo così, del proprio volto, e quindi si vede il tempo passare. Ed era un concetto che si legava tantissimo al pezzo che volevamo usare come primo singolo. Certo. La vita davanti in fondo è questo, no? Uno sguardo al tempo che passa, uno sguardo fra due persone di due generazioni differenti, e la considerazione che quando sei molto giovane davanti ti sembra di avere un mucchio di tempo, ma che però la realtà che hai intorno spesso questo tempo te lo ruba con dei falsi input che ti impediscono di seguire in fondo quella che potrebbe essere la tua vera strada. Poi, Tommaso ha anche detto in un'intervista, sicuramente sei d'accordo anche te, che il pop, non bisogna vergognarsi del pop, assolutamente. E questo è un discorso che noi cerchiamo di portare avanti da anni. Da anni, no? Cioè, nel senso, alla fine esiste la musica che ti piace e la musica che non ti piace. Certo, certo. Che poi questa musica appartenga al cosiddetto mondo indie, piuttosto che al mainstream, piuttosto che alla musica classica o al jazz, almeno secondo me e secondo noi questo è di secondaria importanza. Sì, le cosiddette scalette, i cosiddetti settori non dovrebbero esserci. La musica è musica e basta. La musica è musica e quindi il pop rientra. E rientra in questo, chiaramente. In questo. Benissimo, adesso andiamo alla title track, così come si dice, Musica X. Pezzo molto interessante, innovativo, sempre nell'ambito del percorso di perturbazione. Che ne dici, Elena? Questo è un pezzo che ha visto Tommy lavorare moltissimo sull'uso della voce in un modo totalmente diverso da quello che aveva fatto fino a quel momento. E quindi per noi è interessante per quello, e anche perché finalmente si balla. Esattamente, ci si muove, si balla, esattamente. Lo sentiamo adesso, Musica X. Cantami o musa dei luoghi abbandonati e della musica che li rende abitati. Le discoteche, le stanze d'ospedale, della canzone capace a sollevare il male. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Blu Time. 22:18 minuti, ancora pochissimi minuti in compagnia di Elena Diana di Perturbazione. Elena, ci sei? Sono sempre qui con voi. Bene, Gigi ha detto una frase molto bella. Abbiamo messo un freno su una cosa particolare, la tristezza. È vero? Sì, sì, sì. Siamo stati in studio con un grandissimo cartello con su scritto Basta Lacrime. Esatto, Basta Lacrime. Non so se è una battuta, doveva essere il titolo del disco o una battuta Basta Lacrime? È una battuta. Appunto, perché poi perché c'era anche Simogente De Borgato, una cosa simile. è un concept dell'album non scritto, è una cosa che passa tra le righe, ma un po' perché comunque nel nostro percorso abbiamo avuto uno sguardo sulle canzoni sempre abbastanza intimista. Sì, molto intimista. E forse solo nel nostro tempo rubato abbiamo alzato un po' il naso e abbiamo iniziato a guardare fuori. Un po' perché molto spesso, anche con molto affetto, molti venivano dopo la fine del live a dirci: bravi, ci è piaciuto tanto il concerto, mi avete fatto piangere. È vero. Che è una cosa che in qualche modo ci colpiva tantissimo, perché se da una parte il nostro sound poteva avere dei toni malinconici, vuoi perché l'uso del violoncello, vuoi per alcuni testi, però c'erano anche e ci sono dei pezzi del nostro repertorio passato anche abbastanza allegri, insomma. Però una cosa che ha detto Gigi molto interessante: avventurarsi in territori sconosciuti è affascinante. Riusciamo a dominare una canzone fatta di quelle quattro cose, ma che poi piaceranno a quelle quattro persone, ma per modo di dire alle quattro persone. Non so, alla fine si scrivono i pezzi primariamente per piacere a se stessi, cioè quando metti fuori un brano ti deve piacere, non puoi mettere fuori una cosa che proprio non ha niente a che fare con te. Ma se piace a te, piace anche alla gente, di solito è sempre così. Magari non a tutti. Non a tutti, però sicuramente non a tutti, nel senso non positivo, a tutti. Poi il discorso si amplia, si allarga considerevolmente. Poi avete fatto tanti concerti, sapete benissimo. Sapete il pulsare del pubblico lo conoscete immediatamente senza nessun problema. sì, e insomma, tornando alla tua considerazione, ci sarebbe piaciuto alla fine di un live sentire qualcuno che, oltre a mi avete fatto piangere, avete fatto ridere, ballare, mi avete fatto ballare, sono così, mi sento meglio, mi sento più allegro, e così abbiamo provato a calcare la mano su quest'altro aspetto che in realtà ci è sempre appartenuto, ma che evidentemente è sempre uscito un po' meno fuori di quello malinconico. Ci sono degli ospiti importanti nell'album, Elena? Sì, ci sono degli ospiti che ci hanno aiutati in diversi pezzi. Erika Mu, che ci ha accompagnato in ossessione e ha cantato insieme a Tommy questo brano, che è fra virgolette quello un po' più sexy e che occhieggia all'argomento che in qualche modo è arieggiato in tutto l'album. Tutto l'album, esattamente. Che è quello del sesso visto sotto diversi punti di vista. Molto ironico in alcuni momenti, assolutamente ironico. Molto ironico. Certo. In questo senso sezione, ma anche magari come invece vissuto personale, come ricordo dell'infanzia. C'è l'altro pezzo, I baci vietati, in cui ha cantato Luca Carboni, per esempio, un po' è questo, no? A mia madre non ho chiesto come è stato il primo bacio, ecco. Certo. E poi ha partecipato al disco anche Niccolò Dei Cani in un altro pezzo che è Sparta. E poi Vittorio Cosma ha messo il pianoforte anche lui sui baci vietati. Quindi abbiamo avuto degli ospiti che ci hanno aiutato a raccontare questo disco. Decisamente, il disco esce per un'etichetta storica, la Mesca, quindi dobbiamo sottolineare. La Mesca, sì, con cui avevamo già collaborato per Canzoni allo specchio. Esattamente. Dimmi. Che poi avevamo, con cui poi ci eravamo lasciati in realtà bene, ma per motivi contrattuali eravamo passati in EMI, poi si è conclusa l'esperienza non proprio felicissima con EMI, e siamo stati un po' da soli, e poi per questo nuovo progetto abbiamo rincontrato la Mescal, che si è dimostrata molto entusiasta, e quindi adesso stiamo lavorando molto bene insieme e guardiamo con fiducia a quello che verrà. La Mescal è l'etichetta storica dell'indie italiano, After Hours, i Subsonic chiaramente. Precisamente. E poi avete fatto un'iniziativa importante, è uscito con XL di Repubblica, è stata la prima volta, mi pare, che XL di Repubblica propone un album di assoluti inediti, una cosa molto positiva. Sì. È una cosa molto positiva. Adesso lo scopriremo in realtà, perché il disco sarà ancora in edicola con XL, credo per pochi giorni. Sì, esattamente. E quindi alla fine di questa operazione scopriremo se è stata una bella iniziativa sia per noi che per loro. Per noi sicuramente è un cambiamento rispetto alla distribuzione classica nei negozi e nelle grandi catene, anche se poi il disco arriverà anche certo. nei negozi, e per loro appunto la prima volta che pubblicano un inedito in allegato. È una cosa che fanno spesso e volentieri all'estero, in Inghilterra, capita. Secondo me è una buona alternativa, certo. Anche perché bisogna considerare che il mercato dei dischi è molto cambiato, piccoli negozi ce ne sono di meno, reperirli non è sempre semplice, quindi tutto sommato può essere appunto un'alternativa. Una via, un'alternativa diversa. In ogni caso il disco è molto bello, cari ascoltatori, merita, Musica X di Perturbazione, merita assolutamente di essere ascoltato, di essere Grazie. Sentito, di essere trasmesso, come facciamo noi stasera. Abbiamo deciso di finire con la traccia numero 5, adesso non ricordo il titolo, però. Vogliamo anche ricordare. Infinita. Ecco, che è una ballata bellissima che noi abbiamo proposto per un mese circa nei nostri programmi. Visto che abbiamo parlato anche di concerti, magari facciamo, sì, esattamente. Ricordiamo anche... Cara Elena, se hai le date, chiaramente. Sì, allora le date che sono confermate sono il 13 giugno a Bologna, al Botanic Festival, il 21 giugno a Padova, Castello Carrarese. Dove a Padova, scusa? Al cortile del Castello Carrarese. Esattamente, una data imperdibile per noi padovani. Speriamo di vedervi numerosi. Poi saremo a luglio, il 4 luglio al Carro Ponte a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 18 luglio a Torino, al cortile della Farmacia, il 27 luglio a Villa Ada, a Roma. Benissimo. E poi abbiamo ancora il 1 di agosto, saremo a Zevio, in provincia di Verona. Benissimo. Queste sono le date, in ogni caso si può trovare nel sito, chiaramente, Elena. Certamente, www.perturbazione.com, ci sono gli aggiornamenti e un po' di altre cose da andare a vedere. E poi vi daranno il premio, così non vi vedranno più ai concerti, come dicevi prima. Speriamo che ci facciano fare un centinaio di date. Ecco. Però... Benissimo. Ok, Elena, terminiamo con questa ballad. Questo è un pezzo molto Perturbazione, come melodia, come arrangiamento, come musica, secondo questo me. Questo sì. Assolutamente il vostro marchio di fabbrica. Anche gli altri, ma questo sì, assolutamente. I nostri ascoltatori più affezionati si ritroveranno forse un pochino più a casa. Questo è un brano che nel testo nasce, in realtà credo, dalla visione di un po' di film di guerra di Tommaso in quel periodo. Ho capito. Che poi ne ha tratto questo testo, che è stato visto insieme a Gigi, che è poi quello che ha curato di più la parte musicale, quindi che arrangia un po' il tutto, più acustico e un po' più intimo. Decisamente un pezzo che a noi, io ed Alberto Prisco, che cura il programma, il nostro direttore artistico, si è subito entusiasmato, anche gli altri, ma questo in particolar modo, io che ricordo, noi vecchi perturbazioni di qualche tempo fa, ecco, non i vecchi, questo voglio dire. Assolutamente. Grazie per non aver detto i vecchi. Assolutamente. Grazie Elena. Grazie a voi, vi saluto caramente, e anche tutti gli ascoltatori. Grazie a te. Grazie e saluta tutta la band da parte nostra. Senz'altro. Grazie Elena. Ciao, grazie. A presto. Ciao. Non sono un principe. E tu lo imparerai, sono il sergente che al fronte ti aiuterà a gettarti a terra prima delle bombe, ad evitare mine sul sentiero, ad aspettarti che il peggio ti aspetti davvero. Non sono un capitano, io non ho i gradi del tenente, del generale, mi manca la mente. Sono il sergente sgraziato, la barba incolta e pungente. Sono tuo padre che un giorno non conta più niente. Tu segui il protone, il mio commilitone, carota e bastone, comando un'uscita. E posso soltanto sperare la sera tu faccia ritorno. Immaginavo domani sull'uscio di casa mia, ti immaginavo domani o quel giorno che sia, mia fante di spade, mia donna di cuori, mia coppia vestita, mia figlia infinita, mia fante di spade, mia donna di cuori, mia copia vestita, mia figlia. Tu segui il protone, il mio commilitone, carota e bastone, comando l'uscita. E posso soltanto sperare la sera tu faccia ritorno.